cuando amanece el día y el cielo pinta tus ojos negros. Vaya suerte la mía que pueda verte en ese momento. Quando l'alba rovescia le ultime gocce di pioggia dopo una notte di diluvio, noi prendiamo il treno regionale che da Madrid ci porta a Getafe, una manciata di chilometri a sud della capitale. Destino Spagna, prossima parada. In questo terzo reportage sulla Spagna che si prepara al voto, la parola d'ordine è disoccupazione, il problema numero uno del paese iberico. Le cifre sono inquietanti. Le ultime statistiche parlano di un tasso di senza lavoro in continua crescita che sfiora i 5 milioni, equivalente al 21,52%, la percentuale più elevata da 15 anni. Parliamo di 1,5 milioni di nuclei familiari dove nessuno dei componenti lavora. Drammatico il tasso di senza lavoro tra i giovani, in questa situazione quasi il 45%. Non c'è dunque da stupirsi se il tema principe di queste elezioni in Spagna sia stato il lavoro. E ruminando mentalmente queste cifre che giungiamo a Getafe, città satellite della capitale, un paesone di ben 160.000 abitanti. Ed è qui da Getafe che comincia il nostro viaggio all'interno della disoccupazione, del problema disoccupazione in Spagna, che rappresenta veramente una grandissima difficoltà per questo paese. Il problema più importante che hai ora mismo in Spagna. Javier Covaleda è il direttore del Centro per l'Impiego di Getafe. Il problema più importante oggi in Spagna è la disoccupazione, conferma. Se parliamo della sola comunità di Madrid, i tassi sono abbastanza omogenei, siamo intorno al 13% di disoccupati nella regione. Le categorie più colpite sono giovani in cerca del primo lavoro, i maggiori di 45 anni e le donne. Chiedo a Covaleda se ci siano professioni che più hanno sofferto la disoccupazione. Los sectores económicos más afectados por la crisis. Qui a Getafe sono state molto colpite la costruzione e il settore industriale, di riflesso pure il settore servizi. Per paradosso, in questa crisi ho visto per la prima volta colpiti persino i professionisti con anni di esperienza alle spalle. Normalmente qui da noi si presenta chi ha poca esperienza e poche competenze. Premesso questo, vediamo quali sono i nuovi giacimenti del lavoro. Beh, c'è qualcosa nel settore delle energie rinnovabili, nell'area informatica e ICT, e continua a esserci qualcosa pure nell'area servizi, parlo di grandi spazi commerciali. Ma perché è così alta la disoccupazione giovanile, gli chiedo? Credo che la prima barriera per i giovani sia la loro formazione. Un'alta percentuale di giovani disoccupati ha una formazione di bassa qualità, si arrangiano con lavoretti. Invece i giovani con alta qualificazione e formazione hanno maggiori possibilità occupazionali, anche se è difficile per tutti. Quando negoziamo con le imprese ci chiedono giovani con esperienza professionale, il che è praticamente impossibile. In Spagna, ci spiega Covaleda, le politiche di assistenza e senza lavoro sono sia di tipo passivo, con sussidi di disoccupazione e assistenza, che di tipo attivo, puntano cioè a reinserire senza lavoro nel circuito professionale. Il futuro però lo vede abbastanza nero nel breve termine, ma spera che il fondo sia stato toccato. Fuori dal suo ufficio i disoccupati fanno intanto la fila per i colloqui con i funzionari. Alejandro ha 19 anni, cerca un lavoro qualsiasi, ha lavorato come informatico. Il problema di disoccupazione lo vede nero. Non c'è molta offerta. Le aziende chiedono esperienza, ma io ne ho poca, dice. Mario sta cercando lavoro nel settore della ristorazione. Il problema della disoccupazione lo vedo molto male. Fino a 2 settimane fa stavo lavorando e ora, beh, conto di trovare però un impiego. Nel mio settore si trova ancora. Il problema riguarda soprattutto chi lavorava nel settore della costruzione. E poi ci sono i tipi di contratti. Sono contratti spazzatura, precari, a tempo. Luis ha 50 anni e conducente di camion. Considera il problema della disoccupazione enorme. Ho lavorato fino a 5 mesi fa. Poi l'azienda ha cominciato ad andare male, a licenziare, e mi è toccata. Spero di trovare lavoro, ma non so quanto ci vorrà. Ho molti colleghi nel settore che stanno anche peggio di me. Le cose vanno davvero male. Yvonne, 19 anni, è studentessa e sta cercando di arrotondare con qualche lavoretto. La disoccupazione è alta, continua a crescere. A me piacerebbe trovare un lavoro part-time. Noi giovani siamo il futuro, ma la vediamo super difficile. L'unica cosa che ci resta è studiare e apprendere. Grave, muy grave. Infine Monica, 29 anni. Il problema della disoccupazione è grave, temo che non sia finita qui. Cerco qualsiasi lavoro. Io prima disegnavo mobili, ma ora non rifiuto più nulla. Mi sta costando molto trovare lavoro. Cercano o gente più giovane o più anziana di me. Chi ha tra i 20 e i 40 anni non trova nulla. E È giunto ora il momento di approfondire ulteriormente il problema della disoccupazione, che sembra aver spazzato via qualsiasi altro tema di discussione dall'agenda elettorale, al punto da essere diventato di fatto il monotema di questa contesa politica. In pieno centro, a Madrid, ha sede Comisiones Obreras, il principale sindacato spagnolo. Incontriamo Javier Doz Orrit, responsabile delle relazioni internazionali. Il triste record di tener la tassa di paro más elevada. La disoccupazione è il problema numero uno in Spagna. Circa 5 milioni di disoccupati rappresentano la cifra più alta della nostra storia. Le politiche adottate dall'Unione Europea e accettate dai governi, che puntano a sanare i conti pubblici, non risolvono il dilemma della crescita e della disoccupazione, anzi, gli vanno contro. Gli chiedo quanto abbia inciso lo scoppio della bolla immobiliare. Il problema specifico spagnolo già prima della crisi era il sovradimensionamento del settore della costruzione, sia in termini economici che di occupazione. Non abbiamo problemi di conti pubblici, abbiamo piuttosto un problema di debito privato, con un modello economico basato su settori senza grande valore aggiunto. Gli chiedo dei giovani. Il desempleo giovanile e la precarietà. La disoccupazione giovanile e la precarietà dei giovani è un problema essenziale del nostro mercato del lavoro. Per noi è la preoccupazione principale. In primo luogo occorre riattivare l'economia, occorre dare la priorità alla crescita economica. Se crolla l'occupazione non c'è piano per i giovani che tenga. Noi abbiamo proposto un piano di impiego giovanile basato su contratti di formazione e lavoro e sgravi fiscali per l'assunzione di giovani. Dottor Ritta, prima di lasciarci, sottolinea altri due problemi: i bassi salari spagnoli e la ripresa dell'immigrazione dal paese per motivi di lavoro. Si stimano 450.000 cittadini espatriati nel 2011 secondo i sindacati. Infine una frecciata ai socialisti. Hanno sempre avuto una politica fiscale di destra che ha causato cattive ripercussioni sui conti pubblici e da 2 anni tutta la politica del PSOE è diventata di austerità. In vista di un governo del PP, Doz Orrit non si fa illusioni. Si prospettano tagli, tagli e ancora tagli. A pochi chilometri di distanza, al 13° piano, con vista panoramica del Paseo de la Castellana, il cuore degli affari di Madrid, ha sede la PCE, associazione che riunisce le imprese immobiliari spagnole. Anni da dimenticare per loro gli ultimi. Si è passati da 700.000 case in costruzione alle 100.000 di oggi. Con il presidente José Manuel Galindo proviamo a fare il punto della situazione. Sì, in certa medida sì. In un certo senso la bolla immobiliare c'è stata, anche se devi considerarne le origini. Abbiamo avuto dal 2000 una crescita sostenuta ed elevata. Cresceva l'economia, le cose andavano bene, il tasso di occupazione raggiungeva la media europea e gran parte di tutto ciò era sostenuto dal settore immobiliare, direttamente o con l'indotto. C'era anche una domanda reale che rispondeva ai movimenti migratori. Tuttavia si sono costruite più case rispetto alle necessità. Ma attenzione, le case si vendevano. Galindo punta il dito anche contro l'eccesso di credito finanziario che sosteneva la bolla. Porre freno a tutto ciò era difficile. E allora lo provoco. Poner freno era difficile. E también el gobierno. Sì, e lo stesso governo, che aveva la percezione di ciò che succedeva, non riusciva a frenarlo, dice Galindo. Fermare la crescita di un paese è difficile. Si sperava che tutto ciò potesse continuare all'infinito, ma fu qualcosa di generale. In Spagna, con un'inflazione alta e tassi stabili, la logica era indebitarsi, chiedendo credito. Tutti chiedevano soldi. Fino al 2007 la rendita di un'operazione finanziaria era positiva. Non c'erano segnali che tutto ciò potesse finire, a parte l'indebitamento, che era eccessivo. Chiedo a Galindo quali siano stati gli effetti sulla disoccupazione dello scoppio della bolla. Si dice che in forma diretta o indiretta la metà della disoccupazione prodotta negli ultimi anni in Spagna sia imputabile al settore immobiliare. Parliamo di 1,5 milioni di senza lavoro, ammette. Io ho proposto al governo di rimettere in marcia in modo sostenibile il settore, pianificando 300.000 abitazioni e iniziando nel 2015. Parliamo di 500-600.000 posti di lavoro diretti, più altri indiretti, che si possono ricreare. Galindo è convinto che il settore immobiliare possa tornare a crescere. Il suo piano di ripresa andrà all'esame del governo che verrà. Sostiene che attualmente il settore sia sottopotenziato. Dopo gli eccessi dell'ultima decade, spera in un ritorno alla normalità. E lo sperano anche i tanti disoccupati che affollano il centro per l'impiego di Getafe, da cui mi allontano a passi lenti, ricordando i loro volti, le loro storie. Prendo il treno che mi riporta verso nord, a Madrid, e mi fermo alla stazione di Atocha. Salgo meccanicamente le scale che portano a un ponte sopraelevato da cui si dominano le rotaie e mi rendo conto di essere esattamente sopra la scena degli attentati di 7 anni fa. E concludiamo oggi il nostro reportage nella stazione di Atocha, dove nel 2004 ci furono quei tremendi attentati che paralizzarono la Spagna poco prima delle elezioni. Siamo esattamente sopra il punto in cui esplosero i treni che arrivarono qui dalla periferia sud di Madrid. Ed è importante oggi ricordare quei morti per non dimenticare.